29 aprile del 2020, ore 21, quasi ore 21. Questa è Radio Onda Rossa e queste prove tecniche di trasmissione anche per oggi, per questo mercoledì. Fino alle 22:30, dopo qualche minuto, inizierà anche 25 o'clock. Il sito è sempre quello, www.ondarossa.info. Il contatto telefonico è 0649 1750. Ricordo il radioabbonamento anche in questo momento molto difficile per tutti, un radioabbonamento che andrà avanti fino alla fine di maggio, e per chi fosse interessato c'è il banner specifico sul sito della radio, 30 euro per 1000 ascoltatori per garantire la sopravvivenza a questa radio che non fa nessuna forma di pubblicità e che va avanti attraverso, per appunto, questo radioabbonamento, le iniziative dei centri sociali attualmente assenti